Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi cominciamo una puntata dedicata esclusivamente alle strenne, ai regali che si possono fare, seguendo un pochino quelli che possono essere i gusti dei nostri interlocutori. E allora cominciamo con una grande biografia di un grande italiano. Sentite questi versi che ci legge adesso Patrizia Zappa Mulas, sono dei versi che tutti noi conosciamo, quelli dell'Infinito di Leopardi. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva e il suon di lei, così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. I versi di Leopardi, letti da Patrizia Zappa Mulas, che ringrazio sempre per l'amicizia che dimostra per questa trasmissione, ci introducono al libro Leopardi di Pietro Citati, pubblicato da Mondadori, 438 pagine, 22 euro. Gli appassionati di Citati ritroveranno qui l'inconfondibile stile dello scrittore e la sua grande capacità di scavare nella biografia, nell'ambiente e nell'opera dei personaggi studiati per individuare l'autentico spessore, in questo caso di Giacomo Leopardi. Il libro si avvia con un tono quasi rossiniano, non a caso evocato dallo scrittore, col sipario che si alza sull'affascinante, a modo suo, personalità del padre, il conte Monaldo, uno degli aristocratici più reazionari del suo tempo, però anche altrettanto sconclusionato e dissipatore, ma artefice quasi morboso della biblioteca nella quale Giacomo si sarebbe formato e avrebbe trascorso i suoi primi anni. E poi i riflettori si spostano naturalmente sul poeta e qui il tono si fa sempre meno rossiniano e più analitico per cogliere nuovi spunti e nuove interpretazioni dell'opera del grande poeta. Sentite per esempio queste righe di Citati che illustrano appunto l'infinito che abbiamo appena ascoltato. Non sappiamo esattamente quando Leopardi scrisse l'infinito. Certo, nel 1819, ma ignoriamo se nella primavera o, come credo più probabile, nell'autunno. Era stato l'anno più terribile della sua vita. Mesi di disperazione, di quasi cecità, di impossibilità di pensare, di tentativi di fuga, di scherni, di rifiuti, di fallimenti, di atroce solitudine. Ma la facoltà di sdoppiamento e di duplicità di Leopardi era immensa. Malgrado la sventura che incombeva su di lui, nell'infinito non c'è la minima traccia di dolore, ma una dolcezza, una suavità, un distacco, un'indifferenza, un candore intellettuale che egli non raggiunse mai più nella sua vita. Dalla biografia passiamo a un regalo per gli appassionati di storia. Vi segnalo una pagina capitale della storia dell'Europa, Lepanto, la battaglia dei tre imperi. Il libro è di Alessandro Barbero, storico romanziere, pubblicato dalla Terza, 770 pagine, 24 euro. Il libro è scritto in forma quasi narrativa, con una luce particolare sui grandi protagonisti di questo evento, la battaglia navale del 7 ottobre 1571, nella quale la flotta turca viene sconfitta da quella cristiana. E la battaglia viene qui presentata fin dagli eventi preparatori e in particolare viene illustrata la preoccupazione del mondo occidentale, come lo chiameremo oggi, per l'avanzata dei turchi nel Mediterraneo. Non è un libro di erudizione questo, ma un affresco molto vivace della diplomazia, dell'arte militare, della vita quotidiana di quell'anno veramente decisivo nella storia del nostro continente. E a questo punto... Il confettino. Vi anticipo un confettino perché di storia ed è l'avventura di Giuseppe Garibaldi raccontata da Bruno Tobia, pubblicato dalla Terza, 112 pagine, 12 euro. L'autore è un professore di storia contemporanea all'Università di Roma che ci dà qui una bella ricostruzione della vita e dell'opera di Garibaldi con delle illustrazioni coeve o di poco successive a Garibaldi, la cui parabola è così riassunta. Garibaldi è un combattente sincero, onesto, risoluto, spesso generoso, a volte duro, più uomo d'azione che di pensiero. Dedito senza risparmio di se stesso a un ideale costantemente perseguito con rettitudine e tenacia, sempre con disinteresse. Passiamo adesso all'arte. Vi segnalo innanzitutto il libro Segantini di Asta Scheib, Francesco Brioschi Editori, 294 pagine, 16 euro, tradotto da Lisa Scarpa. Anche questa, come il libro su Lepanto, non è una vera e propria biografia, ma un romanzo di una grande scrittrice tedesca, autrice di numerose biografie, che in questo caso si dedica al grande pittore che era nato ad Arco nel 1858. La vita di Segantini si presta molto a una narrazione romanzesca. Molti ricorderanno come Segantini fosse nato poverissimo, abbia addirittura sofferto la fame a Milano per poi affermarsi come uno dei più brillanti studenti dell'Accademia di Brera e diventare poi un protagonista autentico delle nuove correnti pittoriche, in particolare il simbolismo e il divisionismo, fino a trovare poi requie in Engadina, una requie relativa perché fu perseguitato dai creditori fino alla fine prematura. E questa è una bella ricostruzione della sua vita, benedetta per così dire dalla nipote di Segantini, che scrive alcune righe di presentazione dopo la prefazione di Isabella Bossi Fedrigotti. Rimanendo agli appassionati di arte, non potete mancare di regalare loro una raccolta di saggi di un grandissimo storico dell'arte del Novecento, Ernst Gombrich, uno dei più importanti studiosi del secolo passato, vissuto tra il 1909 e il 2001. Di lui è uscita un'antologia di scritti essenziali sull'arte e la cultura, pubblicata da Phaidon, 620 pagine, 29,95 euro. E qui troviamo degli scritti di Gombrich sull'immagine visiva, sul rapporto tra arte e psicologia, sull'innovazione e tradizione, sul significato delle opere d'arte e su molti altri temi. Di Gombrich, sempre Phaidon, ha ripubblicato il grandissimo classico, un classico della cultura europea del Novecento, e cioè La storia dell'arte, anch'essa illustrata, anch'essa pubblicata da Phaidon, 29,95 euro, 690 pagine, tradotto da Maria Luisa Spaziani. Questo era un brano dell'oratorio di Natale di Camille Saint-Saëns e ci introducono queste note a un nuovo capitolo, la musica. Agli appassionati di musica sicuramente farà piacere ricevere il libro di Mario Bortolotto, Corrispondenze, pubblicato da Adelphi, 512 pagine, 36 euro. E questa è un'autentica miniera di spunti, di osservazioni, di critiche di uno dei più noti critici musicali, da Gluck a Stravinsky. Gli ultimi 250 anni della storia musicale sono passati in rassegna attraverso gli scritti di Bortolotto che qui vengono raccolti. E non soltanto musica però, perché Bortolotto si concede qualche divagazione, per esempio sui cori alpini che in certi casi avevano incantato anche Arturo Benedetti Michelangeli. Si parla molto di repertori, di teatri, di regie, di tradimenti dei vari registi, ma anche di esecuzioni perfette. Insomma, questa è una testimonianza indispensabile per gli appassionati, ma anche per chi vuole accostarsi all'evoluzione della musica e a chi vuol capire le condizioni della musica di oggi. Questo per esempio è il commento di Bortolotto proprio alle note che avete ascoltato all'oratorio di Natale di Saint-Saëns, di un giovane Saint-Saëns. Ciò che il musicista scopre, scrive Bortolotto, è l'effetto di dislivello stilistico, dare a procedimenti divenuti col tempo canonici un significato che nell'originale non possedevano. La via era stata intravista e anzi largamente percorsa già in opere di esordio. L'oratorio di Noël è un indicatore non si saprebbe più lungimirante. E questo invece è il Mosè, diretto da Riccardo Muti. Questa è un'edizione scaligera, ma come sapete Riccardo Muti proprio oggi conclude all'Opera di Roma il ciclo di repliche che è dedicato a quest'opera di Gioachino Rossini. E di Riccardo Muti è uscito il libro Prima la musica, poi le parole, autobiografia, pubblicato da Rizzoli, 268 pagine, 20 euro. E questo è un lungo reportage sulla propria carriera, condotta con lo spirito di chi vuole soprattutto avvicinare il pubblico alla musica. Dice infatti il grande direttore: non dobbiamo augurarci una schiera di esecutori, ma di fruitori capaci di godere di tutti i benefici immensi che provengono dalla comprensione della musica. E se devo essere sincero, aggiunge, perfino la parola comprensione non mi soddisfa. In musica c'è ben poco da intendere. Non ho alcun timore a rassicurare i cosiddetti incompetenti. Può succedere, capita talvolta, che una persona del tutto ignara del linguaggio musicale abbia di fronte a un brano una reazione assai più profonda di colui che, siccome la sta eseguendo, deve necessariamente conoscerla a fondo. Insomma, un invito a immergerci nella musica. Un libro tira l'altro. Uno dei più noti inni natalizi, eseguito in questo caso dal coro della Cappella Sistina, ci introduce a un mazzetto di libri dedicato a chi ha la passione del Vaticano. Vi segnalo per primo un libro sui vaticanisti, una professione molto delicata, quasi quanto una volta era quella dei cremlinologi. E allora il libro si intitola La Chiesa di Carta, i vaticanisti raccontano, è curato da Rodolfo Lorenzoni e Ferdinando Tersitani, pubblicato dalle Paoline, 170 pagine, 14 euro. Qui di vaticanisti ne troviamo addirittura 32, italiani e stranieri, in brevi interviste, nelle quali ciascun giornalista racconta la propria carriera, ma soprattutto la Chiesa e il papato nei suoi problemi e le sue prospettive. Per esempio Gian Guido Vecchi del Corriere della Sera scrive che la cifra principale del pontificato di Benedetto XVI è quello di evangelizzare, di rapportarsi al mondo come facevano i cristiani all'inizio. Un altro, Marco Politi del Fatto Quotidiano, osserva di sentirsi felice di non occuparmi di politica. Rispetto alla media della classe politica attuale, le personalità che si incontrano in Vaticano nel mondo religioso sono molto più interessanti. E c'è anche Sandro Magister che con Scheiwiller ha curato il terzo volume delle omelie domenicali di Benedetto XVI. Il decano dei vaticanisti è forse Benny Lai, il quale pubblicò il primo libro sul Vaticano ben 50 anni fa e che adesso propone Racconti Vaticani, pubblicato da Fede Cultura, 168 pagine, 11 euro. Sette racconti, sette bozzetti, si sarebbe detto una volta, illustrati da Renata Penta, che ci fanno entrare nel Vaticano autentico, quello meno noto, soprattutto quello di una volta. Segnalo anche sul Vaticano il libro di Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, C'era una volta un Vaticano, perché la Chiesa sta perdendo peso in Occidente, pubblicato da Mondadori, 178 pagine, 18,50 euro. Il Vaticano è in affanno, scrive Franco, e il libro vuole esaminare quello che egli ritiene i punti di crisi di questo affanno, riconducibili alla sfida che la Chiesa sta conducendo con un'Europa postmoderna senza punti fermi né negativi né positivi, così ancora l'autore, il quale poi si sofferma su vari temi, la diffusione delle feste religiose, per esempio Halloween, i rapporti difficili con l'America di Obama, la crisi finanziaria, l'Italia, le presunte gaffe del pontefice e il tema del Medio Oriente. Agli appassionati del Cammino di Santiago segnalo infine il libro di Massimo Serafini, Io sul Cammino di Santiago di Compostela, pubblicato da Mauro Pagliai, 204 pagine, 13 euro, un libro significativo nell'anno santo per i pellegrini di Santiago. Questo è il diario del cammino, pari a 800 chilometri, raccontato da uno scrittore neofita che riesce a trasmettere il significato del pellegrinaggio così presentato nella prefazione di Marisa Cecchetti. Camminare in solitudine, scrive, offre la possibilità di pensare, di riflettere, di scendere dentro gli angoli più sconosciuti del nostro essere, di stupirci davanti ad aspetti di noi stessi che non abbiamo ancora conosciuto, di diventare più facile al pianto, di vivere più intensamente le emozioni, di capire le preziosità di ogni momento della nostra vita. Questi sono i Talking Heads, di cui ha fatto parte, anzi ha fondato, David Byrne, che è anche uno scrittore, che ci ripropone adesso un altro tipo di pellegrinaggio, un pellegrinaggio in bicicletta, e quindi il libro è particolarmente adatto a chi è appassionato di biciclette. Diari della bicicletta, pubblicato da Bompiani, 380 pagine, 19 euro, tradotto da Andrea Silvestri. Anche andare in bicicletta può assumere un significato trascendente, secondo Byrne. Ho scoperto, scrive, che andare in giro in bicicletta per qualche ora al giorno mi aiuta a conservare l'equilibrio. Sembra quasi una forma di meditazione, in un certo senso lo è. Compiere un atto familiare come guidare l'auto o andare in bicicletta ci pone in una regione mentale non troppo profonda né troppo coinvolgente. Si tratta di un'attività ripetitiva meccanica che favorisce uno stato psichico che permette all'inconscio di affiorare, ma senza esagerare. E allora le cronache di questi pellegrinaggio dagli USA a Berlino, a Manila, a Sydney, a Buenos Aires, una cronaca che diventa un'occasione per gettare un'occhiata molto particolare a queste città, e quindi un reportage davvero alternativo che piacerà molto ai ciclisti, che si riconosceranno nelle ultime parole del libro. Vedere le cose da un punto di vista abbastanza vicino ai pedoni, agli ambulanti, alle vetrine dei negozi, sommato al fatto di spostarsi con un mezzo non completamente separato dalla vita che si svolge per le strade, è piacere allo stato puro. E agli appassionati di biciclette segnalo, di Gio Pozzi e Adriano Maccarano, Macchina perfetta, teoria, pratica e storia della bicicletta, illustrata da Mara Villa, è pubblicato dal Saggiatore, 25 euro, 190 pagine. Questo è un manuale per capire tutto, ma veramente tutto, della bicicletta. E allora vi auguro buoni acquisti, ringrazio Margherita Aina in redazione, Roberto Scaltritti in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Buona settimana e a risentirci domenica prossima.